scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, anche oggi con voi uno degli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura, gli incontri di Voci in Scena. A Torino nel 1952. Il fratello maggiore Franco è un cantante di discreta popolarità negli anni 60. Lui muove i primi passi a livello musicale accompagnandolo in tournée come chitarrista. Dopo le esperienze con alcuni gruppi incontra il grande Giancarlo Bigazzi. Il debutto da solista nel 1976 con l'album Donna amante mia, ma il trionfo arriva l'anno successivo con Ti amo, che vince il Festival Bar e rimane al primo posto in classifica dei singoli senza interruzioni per 3 mesi. Nel 1979 esce la sua canzone più famosa, Gloria, 29 milioni di copie in tutto il mondo, tantissimi i suoi successi negli anni 80. Nel 1987, insieme a Gianni Morandi e Enrico Ruggeri, vince il Festival di Sanremo con Si può dare di più e insieme a Rafa partecipa all'Eurovision Song Contest con Gente di mare, classificandosi terzo. Anche negli ultimi anni continua a fare tournée e a pubblicare album, l'ultimo Yesterday Today nel 2012. Nel 2013 Gloria viene scelta da Martin Scorsese per il suo film con Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street. Lo abbiamo incontrato a Milano proprio alla presentazione del DVD di The Wolf of Wall Street. Lui è ovviamente Umberto Tozzi. Umberto, intanto come hai saputo, come hai avuto la notizia che Gloria era stata scelta per questo film? Beh, l'ho avuta tramite Gianluca, che è mio figlio, che si occupa della piccola label che abbiamo creato 7 anni fa. E io quando l'ho ricevuta sono rimasto molto sorpreso, perché non, insomma, intanto perché comunque pensavo che Gloria avesse già avuto un passato importante e basta, no? Invece non è così, non è andata così e mi ha molto soddisfatto il fatto e gratificato il fatto di essere stata ripresa nella mia versione. Sì, perché non era scontato, era una canzone nota in America anche con la versione di Laura Branigan, invece quella è proprio tua. E quando hai visto la scena cosa hai pensato? Forte, perché peraltro alcuni amici, io vivo a Monte Carlo ed era uscito in Francia prima che in Italia, e alcuni amici l'avevano visto e mi hanno detto, tra l'altro è in un punto molto importante del film dove c'è questo viaggio in barca molto pericoloso che affrontano, e quando arrivano sul bordo lì di Portofino c'è questo brano e quando vidi il film in effetti rimasi coinvolto, perché come credo insomma tutti quelli che l'hanno visto, per me è stato sorprendente veramente l'interpretazione di Leonardo, perché ritengo sia un grandissimo attore e ha veramente un grande fascino, un grande talento, meriterebbe veramente l'Oscar per la sua carriera, sì. Richiamo. Comandante, senta, dobbiamo andare a Monaco di corsa, ok? Monaco, sì. Andiamo a Monaco e andiamo in macchina in Svizzera senza il controllo dei passaporti, sistemo i miei affari, poi torniamo a Monaco, andiamo in volo a Londra per il funerale e siamo a New York entro 3 giorni, cazzo, questo è il programma. Voglio soltanto informarla che potremmo trovare Mare Mosso. Mare Mosso? Ah, ma ce la possiamo cavare, no? È uno yacht di 52 metri. No, non andiamo da nessuna parte se lui non dice che è sicuro, chiaro? Non ti preoccupare del Mare Mosso, che cazzo ne sai di Mare Mosso? Ah, davvero? E invece tu si può spezzare in due la barca? In due la carta di credito, come la vedi? Il Mare Mosso va bene, fidati, il Mare Mosso non è niente, ce la possiamo fare, vero comandante? Sì, voglio dire, sì, andiamo, sì, andiamo piano, ce la prendiamo comoda, glielo dica che è sicuro, che andrà tutto bene. Beh sì, perché chiudiamo i boccaporti e assicuriamo il ponte e può darsi che avremo qualche piatto rotto. Qualche piatto rotto? Chi se ne frega dei piatti rotti? Vi sembra un problema questo? No, non direi. Esatto, vedrete che ci divertiremo un sacco. Forza, andiamo a Monaco, cazzo, sì. Forza, muoviamoci, dai. Io ricordo che durante la mia epoca, che ho avuto la fortuna di vivere, quella degli anni 70-80, sono state scritte le pagine più belle di musica, non solo italiana, anche mondiale, devo dire. Alcune cose mie, devo dire, non sono mai state apprezzate subito, perché in qualche modo, devo dire onestamente, erano un po' più avanti dei tempi. E oggi invece ritengo che, e mi fa piacere, che ci sia stato... c'è stato un ritorno all'apprezzare quello che era un repertorio che ai miei tempi non è stato apprezzato. La cosa bella dell'essere salvati dagli italiani è che ti danno da mangiare, da bere vino rosso e poi si balla. L'avete visto? Era l'aereo che avevo fatto venire a prenderci. Non scherzo, è esploso perché un gabbiano è finito nel motore. 3 persone uccise. Volete un segno della provvidenza? Ecco, dopo tutto questo, io ho finalmente capito il messaggio. Ma se Umberto Tozzi fosse nato in America, ogni tanto te lo chiedi, perché visti i riconoscimenti che hai per le tue canzoni, che comunque devono fare molti chilometri per arrivare? Ma io, guarda, ho sempre detto che... scherzando, però mica tanto, se fossi nato in Inghilterra, senza andare in America, se fossi nato in Inghilterra avrei sicuramente avuto dei riconoscimenti maggiori per il repertorio che ho scritto, perché certe canzoni così popolari, così, che dopo 30 anni, vuol dire, sono ancora, sembrano essere state fatte ieri. Credo di, insomma, per scherzo io ho sempre detto sono il quinto Beatles, perché sono nato con la cultura musicale dei Beatles e quindi ho imparato a suonare la chitarra con le loro canzoni, eccetera, e poi perché ho capito il mondo della scrittura musicale internazionale. E in qualche modo credo che la differenza fra me e altri grandi artisti italiani che hanno scritto pagine di musica bellissime sia stata solo un po', voglio dire, il tipo di scrittura delle canzoni che ha avuto la chance di poi, vabbè, la voce, altre cose, indubbiamente, ma sostanzialmente non penso assolutamente che essendo nato in Italia già sono stato privilegiato ad avere l'opportunità di... È chiaro, fossi nato in un altro paese, per le cose che ho scritto, minimo potrei essere, insomma, Phil Collins o Rod Stewart o Bryan Adams come diciamo popolarità internazionale, però ho sempre detto che in ogni caso sono stato già abbastanza gratificato della mia carriera. Ti amo, solo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci, ti amo, io solo ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io, ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore. Umberto, tu anche grande calciatore, come l'hai vissuta quest'estate di mondiali, di grande calcio? Sì, io figurati, ho preso la chitarra in mano per sbaglio, perché Mio papà mi ha castigato perché non andavo bene a scuola, ma ero, quando ero ragazzo, 16 anni, ero stato convocato a Coverciano per fare un provino perché giocavo al calcio nei Mag del Toro ed ero un bravo calciatore. Poi mio papà rifiutò questo mio futuro e sicché niente, a quel punto lì, per ribellione come fanno tutti i ragazzi, anziché andare a lavorare in banca come lui avrebbe preferito, ho preso una chitarra in mano, ho imparato a suonarla da solo e mi sono fatto una carriera inventata, mi sono inventato questa carriera. Ma onestamente il calcio per me è rimasto qualcosa di spettacolare. Ho avuto anche la fortuna di giocare 20 anni nella Nazionale Cantanti, quindi ho giocato non solo per quello che siamo riusciti a fare, a creare nei tempi, negli anni, per aiutare tante associazioni importanti che avevano bisogno di denaro e con grandissimi risultati, ma ho giocato negli stadi più belli italiani e ti assicuro che fare le scalette per entrare nello stadio, appena vedi il pelo d'erba, c'è un'emozione tale che io nella musica non ho mai provato. Posso anche avere 40.000 persone davanti, non mi emozionano come mi emozionavo quando salivo le scalette per entrare nel campo. Sono felice che quest'anno l'Italia sia uscita presto dai mondiali perché non meritava assolutamente neanche di entrare, e nonostante ci siano dei grandi campioni dentro, ma il cuore in certe manifestazioni così importanti va messo e lì non l'ho visto. Quindi credo assolutamente che il merito vada alla Germania, perché ha un team di molto molto molto importante. Insomma, speriamo che l'Italia, così come nella musica, nel calcio, ritrovi dei giovani, perché se non si riparte dai giovani siamo fermi. E così nella musica e così nel calcio, cioè bisogna far giocare i giovani. Ed è tutto per questa puntata di Voce in Scena con Umberto Tozzi. L'appuntamento è domani alla stessa ora.